Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società. Rduia antic termin langobard di dulache rive le parole furlane gruse che è la croste che si fa anche si siere un ferie del titolo dall'album di debut di Massimo Silverio. Benvenuti a voi o favelin di un programma adut par furlan fat de sederai dal Friul Vignesi e Iulie che potete ascoltare anche in streaming e podcast sul sito Rai Play Sound. Io sono Nicola Angeli e chi con noi vuoi o vin parfuar c'è tabaian di lui, Massimo Silverio. Buon benvenuto Massimo. Ciao Mandi, Nicola. Allora Massimo, ovviamente le Yesude dall'album è una roba anche mo di ottobre, rock road, aiutami qui, qui mesi, usci, insomma non è sicuramente una roba freschia, no? Allora qualcuno a chiase al potrà dire ma tabaiaiso anche mo di Massimo Silverio? La risposta è sì, e tabai anche mo di Massimo Silverio, parece che sono robis novis, è stato un tour tal miec, sabbi d'estate è stata un'etappe a Pesaro, in Tesmarchis, prossimamente non sono anche mo definis, e saranno Atris Concerts proprio per tua avventura, insomma è una roba che va in denante di un post di mes, ma mi pare che non tutti stai stufanti, giusto? No, assolutamente, dici che stai mo attaccante, ecco, la data di Pesaro è stata la prima data in trio e che vin insomma in Bastite, si sta tan content e dopo anzi sarà una data in solo a sua Soclé il 27 di Genar, sì. E dopo comunque si sta in modo delineante principalmente dopo la ring continuare a presentare in trio, insomma, quindi di Jing l'uscita è stata in novembre e come alle okay. Momenti insomma di ciuma su, ecco, e di portanti catorn queste musiche insomma tra club o festival, insomma. Ecco, la si è sviluppata la tournée di Jing fin cumò, no? Tu hai avuto differenti dimensioni, come che tu non stavi scontando cumò, no? Solo, no? Dopo il trio, un altro discorso, tra l'altro in trio con due tuoi collaboratori, amici Storix, no? Che sono Visinus in Ons, no? I tuoi pretoriani, no? Ale Nicolas Rimondino, sì. Batteria, Emanuele Volpe, che è il produttore anche dal disco. E sì, fin cui hai suonato e hai fatto un concerto di presentazione in solo all'ex convento di San Francesco, io a Pordenon, sì. E fatto una date a Udin in una location segreta di Jim Cusi, sì. Sod Nadal poi o Manculio, se non mi pare che fosse in te fasce lì insomma. Esatto, esattamente. E dopo insomma che è in trio, che è stato il debutto da spettacolo ufficiale insomma. Sì, ti fa anche tanti interviste, no? Dopo magari non sai c'è tan place che tu as, con me sicuro, no? Noi voi sei presuntuoso, no? Però alcun altris magari tu verrai dite anche mo che è sempre che c'è una roba che tu sei stuf di tabaià e invece te una che non ti ha mai domandato, che tu hai pensato beh però potevi domandarmi queste robe invece nessun lac alcole, vedi se si arriva a fare un giug dal genere io e te. Ma allora, Ciale, in realtà tu alle sempre biel, no? Alle sempre biel che la Inter si interessi, soprattutto in gente pur dal Friul, che si interessi al disco, che sta che fa domande, soprattutto tanto spalenghe, super influenza, ecco, una domanda che... Bravo, così si fa, no? Ho il sempre piacere di tabaià, così i giornalisti sono contenti, no? Esatto. No, beh, sì, alle sempre piacere, però... È stato un tic, una domanda che mi spiace tanto, sì. Che ogni tanto, non sai, paspadie, un tic di fatture a rispondere, che è dall'influenza, cioè che insomma, una volta, ecco, un tic, un problema secondo me dal giornalismo è che tanti, soprattutto a testare musicals, attending a lei già da che esatte recensioni, no? E dopo attending sempre a la stessa riferimento, fa sempre le stesse domande sui stessi artisti, sì, no? Sì, sì. Sì, però, che dopo a un certo punto a me che non ti placedi, no? Che non ti dice, ah, ma ti ispiri tu a Jeff Buckley e ai Radiohead, no? Anche mo, no? E dopo a me che tu dici, c'è stufa con i Radiohead, invece ti plasing, non splasing, o sì. Anche per me, insomma, in chi scassa, anche se non interesserà che ascolti in a chiase, però vonde, no? Cioè, uno la vuoi dire, io sono Massimo Silverio, o c'è di sei lui, no? Atris, sì. No? Che ovviamente mi influencing, no? quindi sì, a Sicilia, ecco, dai, di seguire il proprio percorso, no? Di essere più possibile se stesso, no? Esatto, quindi, Regina, dopo ecco. È inevitabile, chiunque in tutte le attività del suo vita l'ha influenzato di qualche d'un altro, no? Sennò esatto, non staresti in tal mondo, no? È una roba invece che manchia, te stiacca rispetto a sfat fin cumo, che tu avresti il gusto di approfondire un po' di più, o magari è stata in maniera marginale, no? Te si intervisti su te situazioni che tu hai vissuto fin cumo. Ma è stato un tic, secondo me, alle pari intanto, alle cosiddette, perché comunque la versione fisica dal disco, un tic per una questione, comunque prima che riesci un lavoro di esordi, non tu sai mai, diciamo, che al polà a finire, no? Diciamo che poi essi, la recettività, no? Comunque poi essi, appunto, l'accoglienza. Sì, perché che tu pensi, a me mi plasma, ma plaserai alla Caiatris, no? È esatto, un gran classic, no? Ma anche il fatto che comunque io si è cantato in lenghe principalmente, sì. È stato cantato in furlan e tante appunto recensioni sono arrivate da Fur, mm-hmm. O anche interviste sono arrivate da Fur, da Region, no? È stato forse un tic la roba che manca, secondo me l'approfondì il test, no? Faccio che tanti ad esempio abbiamo associato ai Sigur Rós di Gint, no? E l'islandese, sì, o comunque sì. Anche la lenga inventata da Jónsi, il cantante, sì. Però insomma è quel che in realtà, no, io apri un mondo da uri i miei testi, no? Questa è un furlan Chiarnia di Ciurciuvin, proprio di là che tu sei tu, a livello proprio di produzione scritte, no? C'è tipo di sensazione, spensabito, no? Buttanti u questo test, quando l'ho scritto, come l'ho scritto? Allora, questa qui è stata la mia prima canzone che ho scritto, no, per Furlan, sì. Sono per Chiarniel, ecco, e l'hai scritta quando avevi qualche mese dopo che avevi toccato a Vivi a Udin, insomma, che ormai insomma, sono 6 anni che vivo a Udin, però ieri appena arrivato io, e insomma avevi toccato a scrivere questa canzone qui, e anche pensando tanto al fatto che, diciamo che la Chiarni, no, come ne mari, a me stesso ti lasciando là, no? Infatti hanno dei certi momenti in te canzone, no? Che hai scritto su metriche o comunque anche sul gusto un tic se volin da villotte, sì. Però appunto sempre portate con stiale se robe su un tic lui sì, attualizzandole, sì. Ovviamente, no? Dopo sì, sì. Comunque esatto, con esatto. Riferimento alla figura musicale esatto. Dal timp, no? De grande tradizione, sì. Alle fine nestre, no? Esatto, no? E quindi sì, mi sentivi, no, di capa un chianto così che siete stati anche antichi, no? Dai bones, e portarlo appunto anche con termini, cioè con tipo ad esempio i bocchi e me, dice a un certo punto, no, da prima parte qui, bocchi e me c'è busto, noi da frangi, era una roba che diceva sempre mia nonna, no? Perché in tempi di miseria, no, diceva in c'è busto mio figlio, o code me c'è busto, che non è noi da mangiare, appunto. È come se tanti hanno fatto la via da Chiarnie, no? Per ceri di folk musicalmente, come se io non mi dassi noi da frangi, se in realtà ti sto continuando a fare musica e sempre ispirandomi e sentendo tutto ciò che hai vissuto, ciò che è stata la mia esperienza troppo con la Chiarnie, con il vivi, ahi, il cresci, il nasci, ahi, insomma, ceri di comunque anche dei siumsi di folk, cioè Caletti Fur, che aveva più nel portare più grande rispetto, no, che di che zone, sai. E quindi beh, per ecco farsi, perché dopo anche per l'emancipazione, dopo le necessarie, no, contaminarsi esatto. Con altri scontesti, perché che, se no dopo non si arriveresse a fa nulla, no, dopo diventa tutta una roba autoreferenziale, quindi bisogna, mm-hmm. Bisogna fare questo tipo di passaggio, no? Tu has mi ha incuriosito, no? Perché dopo come che t'abbaiavi in prime di chi che t'abbaia con te, che si sono lesche altre interviste, anche io mi sono letto come ho declari proprio te la rove, no? O ci rudi, sei un po' più diciamo originale, però mi interessava, dopo confermi mi so di sono robe giuste o sbagliate, tra i riferimenti non musicali, diciamo che i letterari o filmatographics, alle anche Werner Herzog, no? C'è ti plasia dalla perché che dopo ultimamente è su della biografia di Herzog, no? Non sai se tu l'hai letto, no? Ma era un lavoro interessante, no? E c'è ti plasia al di lui. Io sono completamente patito dai documentari di Herzog, la che secondo me lui si fa, no, tipo da tramite con tutte queste storie che lui racconta e ti porta in maniera più vera e più naturale possibile, insomma. Sei, non sai, secondo me, io credo che attualmente se ti una delle persone più di ispirazione per me, non sai, io comunque lo sento a carai, stare fuori, ascoltarlo. Sì, sì, ha di... grand fascino, no? Con esatto. Caltabà e... al sì. Tra l'altro lui, tu lo savaras, no? Costretto dalla seconda guerra mondiale, si è dovuto spostare in un paesut tra la Baviera e l'Austria, no? Quindi è stato sì. Taponarli con soffradi e sommari per un evore di Einsla che ha fatto una serie di esperienze di sing borderline si disares, no? Ai margins, sì. No? E quindi lo ha educato proprio te, no? Magari tutti gli altri santi in chista spiet, no? Dal, no, no che tu vedi svudi siamo padri di una guerra, però la vita in un paese di montagna, di zing, ai margini, a comune. L'RNO sempre di Massimo Silvere dal suo album di debut di Esordi, che lo sta portando a Tor Palitalie o in solo, o in formazione col... con altri due collegas, insomma in trio Sabide Stade a Pesaro l'ultima tappa e poi Denant lo potrei ascoltare di Bessoli in Università Socleif. Massimo e Steven Tabayan proprio dalla e Vinta Bayat, anzi no, Steven Tabayan dalla to poetica e dall'approfondimento che tu fai sui testi mentre per ciò che riguardava il Yeva, la tua prima canzone che mi ascoltava. Tu non sai scontare che è stato il print talk scritto dopo il tuo trasferimento a Udin di Ciorciovinti, invece che queste canzoni ci mutise in Nassude. Che qui invece è stato un tic completato di Zinker, già una roba che avevi tirato fuori in Sinagur, è stato completato anche allora, il periodo dal prim lockdown, no? In pandemia. Sì. No? Però allora c'è un pensiero a tanta. A certe robe come ad esempio il D, no? Ho pensato là che a finishing, no? Tutte le ci carreste, no? I gest o le parole o i sentimenti provati da persone, no? Che appunto io ha che stabilisce ambivalenze, no? Di voler di al stesso tempo, no? In nessun look, ma comunque ce l'ha perduta, no? Sì. E quindi queste robe che termini così astratti dal furlanca sono anche difficili da trattare con me, no? Termini astratti in una lingua così concreta, no? Sì, sì, così pratiche, no? Perché dopo pratiche. Le ade alla pragmaticità dal lavoro, no? Dalla vita rurale, diciamo così, no? Sì, sì, sì. E quindi diciamo che ha ridotto una serie di riflessioni appunto su tutto un strato di robe che si muove portando in daur, no? Di cui che non le più dice che ha il nostro appunto il nostro lascito e c'è che insomma è la nostra presenza qui in questo momento che dice che Pagina può dare sfinito in ogni nessun look ma sta sempre perduto di ogni bande. Massimo, queste sono le classiche domande che si fa dopo in ogni intervista, no? Tu stai sentiamo finendo il tour, tu sentiamo un po' di lavoro a Tor Palitalia, insomma, però è stato già pensante al chiave di un artista. Non si pensa mai al domani, ma sempre al dop, da spo domani, no? Si ha sempre una proiezione poi là. C'è ti passi per ciurvieli in questo periodo? Sì, sto sicuramente, sì, già antico al lavoro, no? Su un disco che è un tic più affermativo, in spalenghe, secondo me, rispetto a come questa qui di Esordi, perché comunque questa qui di Esordi, insomma, l'enche comunque una raccolta di tocchi che sono un tic stato ciumazza tra i vari signs, no? che hai scritto varie robe, dopo hai messo sì. Tutti insieme, con che hai avuto la possibilità di farlo e farlo bene, insomma, e fai esci bene. Quindi diciamo che mi piacerebbe sempre mantenere questa direzione, però approfondita da un punto di vista anche musical, propit la forma da canzone. Ebbene, Massimo, no? Prima di salutarti e di ringraziarti, ti visi che la TV per Furlan è slardi la so uffierte da spo la TV dai fruits arriva su RaiPlay la sezione documentaris. Di fat, già dal 2 di gennaio potesse chiattare nei Stris News Prodos che potreste vedere gli entranti in tal sito www.raiplay.it scrivendo te striche di ricerca il titolo del programma che ci ris o dome la TV per Furlan. Grazie Sant'Anni alla Postup per parte tecnica Rianna Zani in regie, voi o Fevelin di al torno domani mattina.